Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Wendy è stata, era una scrittrice, scriveva storie per i bambini, faceva parte della noblesse inglese che frequentava la corte inglese. In lontananza una vettura si inerpicava verso Bussana Vecchia, man mano che si avvicinava si mostrava in tutta la sua imponenza. Si trattava di una Rolls Royce. Storie di eccentriche signore londinesi e di un Nobel in una puntata che si intitola Sì, sono un eccentrico. Benvenuti, scusami. Benvenuti a Panarea. Da dove venite? Stromboli. Che noia. Io sto preparando una bellissima festa in omaggio al cattivo gusto. Ci ho messo quasi un anno ad organizzarla. Helmut Berger ha detto che viene direttamente in mutande. E poi sabato ci sarà la festa della separazione per il mio divorzio. Lei organizza sempre cose di questo genere? Il mio studio offre un po' di tutto, cocktail, cene d'affari, viaggi, ambientazioni. Posso trovarvi un elefante bianco per una cena esotica o un fotografo sorprendente per un matrimonio o un vatusso per animare una serata mondana. Idee, creatività, atmosfere, contatti. Arrivederci e grazie. Le facce di Nanni Moretti e di Renato Carpentieri in questo pezzo di Caro Diario in cui questa donna li aspetta appunto a Panarea e dice questa frase. Loro sono appena sbarcati dal traghetto, incontrano questa tizia che dice: posso trovarvi un cavallo, un elefante bianco o un vatusso per animare una serata mondana? Ecco, le loro facce sono straordinarie quando si girano e dicono arrivederci e grazie, e risalgono sullo stesso traghetto, anzi sullo stesso aliscafo da cui erano saliti. Si intitola Sì, sono un eccentrico, la puntata di oggi. Per questo motivo abbiamo aperto con questo pezzo proprio di Caro Diario, questo film di ormai più di 20 anni fa di Nanni Moretti, perché la puntata di oggi è dedicata a una figura eccentrica in particolar modo, ma in realtà, come sempre facciamo, a più di una, o meglio a più di una storia la dedichiamo la puntata, perché nel 2016, il 13 ottobre del 2016, Bob Dylan, che per tutti è noto come uno dei più grandi cantanti folk di tutti i tempi, americano per l'America e non solo, ovviamente riceveva il premio Nobel. Si è creato tutto un enorme mondo narrativo intorno a questo premio Nobel che Dylan all'inizio non aveva accettato, non era andato a ritirarlo, poi in realtà quel premio se l'è preso e se l'è portato a casa. Il tutto accade nel giorno, o meglio nella notte, del premio Nobel che passerà alla storia per il premio Nobel al citofono, visto che da questa notte gira in rete e sui social questo video preso da una telecamera di sorveglianza notturna in cui uno dei due premi Nobel, uno dei due vincitori del premio Nobel all'economia, che sono Bob Wilson e Paul Milgrom, che sono due ricercatori, sono due economisti che lavorano insieme e che vivono uno di fronte all'altro, vincono insieme il premio Nobel, solo che uno dei due ha il telefono staccato e quindi l'altro glielo va a dire al citofono. L'avrete vista, c'è questa telecamera, dicevo, di sorveglianza, si intravede un paio, due figure che arrivano nella notte, sono un uomo e una donna abbastanza anziani, uno citofona portando la mano praticamente sotto l'inquadratura, evidentemente il citofono lì sotto, citofono, finalmente l'altro si sveglia. Questo dice: Paul, sono Bob Wilson, hai vinto il premio Nobel. E glielo dice così in diretta. Non è la prima volta che accade che il premio Nobel venga comunicato in questo modo. Addirittura si diceva che Dario Fo l'avesse scoperto mentre girava, se non ricordo male, una cosa per la televisione, e qualcuno dalla macchina, lui era su una macchina che registrava questo programma, e qualcuno gli scriveva a penna su un foglio accanto alla macchina su cui lui viaggiava: hai vinto il Nobel. E poi ho letto, insomma, di altri casi. Doris Lessing, che l'ha vinto, era al supermercato a fare la spesa, è tornata a casa e c'aveva lì i giornalisti che l'aspettavano. Insomma, in questo è periodo di premi Nobel, lo sappiamo, ormai il Nobel a Stoccolma lo danno uno alla settimana, così la tirano lunga per un paio di mesi. 4 anni fa, vi dicevo, lo riceveva Bob Dylan. Oggi vi racconteremo quindi una storia legata proprio a Bob Dylan e a un archivio immenso dedicato a lui, che vale attorno ai 65 milioni di dollari. Ma prima partiamo con un luogo fatto di persone eccentriche. Torniamo a Bussana Vecchia. Avevamo già raccontato una storia famiglia Divani, dedicata e ambientata in questo borgo. Bussana Vecchia è un posto veramente magico che si trova in Liguria, che è in provincia di Sanremo. Era stato devastato da un terremoto a metà del 1800, e negli anni 60 un gruppo di artisti l'ha preso e l'ha fatto risplendere letteralmente con le proprie mani. Ecco, ritorniamo là, siamo insieme a Vanni sopra un tetto di una di queste case diroccate, sta sistemando il suo tetto, da lontano vede arrivare una Rolls Royce. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mi trovavo appollaiato in cima ad un rudere situato all'ingresso del villaggio. Cercavo di riparare un tetto sventrato dal nefasto atto di un'amministrazione comunale di Sanremo degli anni 50, che aveva così pensato di rendere completamente inabitabili i resti di Bussana Vecchia ed evitare nuovi insediamenti di gente indesiderabile. In lontananza notai una vettura che si inerpicava, traballando, sul dissestato sentiero che rappresentava l'unico aggancio con il resto del mondo. Man mano che si avvicinava si mostrava in tutta la sua imponenza. Si trattava infatti di una lussuosa Rolls Royce. I raggi del sole pomeridiano creavano fluttuanti riflessi sull'argentea carrozzeria. Non capivo se si stesse trattando di un miraggio dovuto forse alla stanchezza che cominciava a farsi sentire. Avrei voluto poter vedere la mia espressione quando un autista in livrea, uscito dal posto di guida, aprì la portiera posteriore della limousine per far uscire una figura femminile sinuosa ed ancheggiante, inguaiata in un abito damascato scollatissimo, dalla foggia orientale, arricchito di uno spacco che faceva intravedere buona parte dell'anca sinistra. Io mi scossi quando la donna bionda, sfilandosi un sofisticato paio d'occhiali scuri, esclamò in perfetto inglese: «Dove si può bere una tazza di tè?» Dall'alto del mio podio riuscii a bisbigliare in uno stentato idioma anglosassone qualcosa tipo: «Se vuole posso offrirle un bicchiere di vino». Venne con me, cercai di spiegarle che mi trovavo in quel posto perché rapito da una strana magia. Avevo intenzione di invitare a Bussana Vecchia molti amici per condividere quella miniera di emozioni, visto che un paese come quello, totalmente abbandonato, possedeva un'energia positiva che ti spingeva a vedere solo i lati buoni della vita. Era un paese che ho scoperto poi con un fascino particolare, perché immagina le case, non c'erano finestre, non c'erano porte, questo aspetto spettrale che ti affascinava, in sostanza un paese intero con due chiese abbandonate, era qualcosa di affascinante, ecco. Io sono stato attratto perché da lì si poteva, da una distruzione vedevo la ricostruzione nel modo come piaceva a me e ai miei amici. Io avevo un centinaio di amici di tutte parti del mondo che sono poi venuti a partecipare a questa rinascita. Azzardai quindi un'offerta, le dissi: se le piace davvero, perché non viene a vivere anche lei qui, sceglie magari una casa a suo piacimento. Lei mi guardò con uno strano guizzo negli occhi che in quell'istante non riuscì a decifrare. Si presentò come Wendy Wilmot da Londra e aggiunse soltanto: «See you soon», «Ci vediamo presto». E quella storia per me poteva finire lì. Ma non andò in questo modo. Passati circa 7 giorni, il buco che adornava il tetto della mia bottega era stato riparato alla meno peggio. Mi trovavo ad ammirare quello che avevo fatto, mentre tutta la mia persona, dalla testa ai piedi, era un ammasso di calce, cemento e polvere. In un replay che aveva qualcosa di comico e fatale, alla stessa ora di 7 giorni prima, ricomparve sul viottolo polveroso la stessa vettura inglese. Colei che si era presentata come Wendy veniva aiutata a scendere, e con lei 1, 2, 3, 4 enormi valigie. E poi pacchi, una miriade di fagotti e di sacchetti. Con un sorriso insistente continuava a ripetere: «I am here, sono qui». Aveva lasciato la sua lussuosa casa di Antibes, i suoi amici, decidendo di cambiare totalmente vita, portandosi dietro soltanto le cose più care. E fra queste, un imprevedibile, colorato, impassibile animaletto, un tenero pargolo di Crocodilus vulgaris. Sì, un coccodrillo. I'm La cosa migliore che mi venne in testa fu quella di offrirle tutta una dimora, poco distante dalla mia. Beautiful is fantastic, fu quello che disse Wendy alla vista della sua nuova casa. In quell'attimo capii che non ero pazzo. Lei si diede subito da fare, i suoi gesti erano ben pensati. Visto che allora, come credo ancora oggi, a Bussana Vecchia non esistevano i facchini, dovetti sudare 7 camicie per trasportare tutti i suoi bagagli. Tranne, of course, la tenera bestiola che teneva sempre stretta al petto. Da una grossa borsa tira fuori una di quelle piccole piscine di plastica, come quelle che si usano per fare il bagnetto ai bambini. Si mise a soffiare con impegno fino a farle raggiungere la forma desiderata, poi mi chiese dell'acqua, ne versò un bel po' dentro la vasca e con delicatezza materna mise a dimora il piccolo coccodrillo. La sua storia bussanese ebbe inizio proprio allora. In pochi minuti la scenografia della sua nuova casa si arricchì di altri elementi. Al posto delle finestre e porte mancanti ci fissò delle tele variopinte. Un sacco a pelo, sormontato da una zanzariera, rappresentò la sua camera da letto. Una valigia coperta da uno scialle, la sua tavola da pranzo. Sul davanzale di una finestra che guardava verso le colline sistemò la sua piccola macchina da scrivere. Non mi ha mai fatto leggere le fiabe per bambini che diceva di scrivere, mai, sono per bambini, ci teneva a ricordarmi. Prendeva il sole quasi nuda, fra piante selvatiche di ruta e nepotella, che crescevano abbondanti sulla sommità della sua dimora. Affascinante, aveva un fascino particolare, non dico bellezza, ma un fascino particolare, sì. Per esempio, si vestiva poco, ecco, nella terrazza a casa sua stava quasi nuda, e per questo ha destato molte storie con gli abitanti dei paesi vicini che sapevano che c'era una turista mezza nuda e che purtroppo hanno dato fastidio e io sono dovuto intervenire per cercare di mandare a quel paese perché venivano lì a guardare. La storia più drammatica che sconvolse la vita della scrittrice incominciò qualche mese più tardi. Ai limiti del villaggio viveva una donna anziana che si chiamava Francesca. Aveva una sola passione, raccogliere gatti randagi. In particolare quelli malandati, vecchi, ciechi, zoppi. La chiamavamo Francesca dei Gatti. E forse per scherzo, un giorno un contadino che lavorava in un campo di fiori poco distante le chiese se era al corrente del fatto che l'inglese, Wendy la chiamavano così, possedesse un coccodrillo. «Credo di sì», disse Francesca. «Perché me lo dici?» «Così», rispose l'agricoltore. «Quelle bestiacce mangiano solo carne viva. Fai attenzione ai tuoi gatti». Vuole il caso che il giorno dopo venni svegliato da un urlo disumano, tale da fare scappare i piccioni selvatici che popolavano la torre campanaria e immaginai che il grido provenisse dalla casa di Wendy e non ebbi torto. La ricorda era come pietrificata. Teneva in mano il suo coccodrillo dall'aspetto alquanto malconcio e sicuramente esanime. Io tentai di consolarla, ma ottenni l'effetto contrario. Esaurite le grida di disperazione e le lacrime, Wendy si chiuse in un mutismo preoccupante, mentre io suggerivo di organizzare un funerale con successivo interramento, occhio non vede, cuore non duole. Ma anche questa volta ottenni l'effetto opposto. «Mai e poi mai», gridò l'inglese. «Io lo voglio imbalsamato». Qualche anno più tardi, la nostra scrittrice cambiò casa. Ne scelse una più grande, situata proprio sotto la chiesa madre. Non ha mai chiesto aiuto ad alcun muratore. Le sue mani corrose dal cemento acquistavano ogni giorno di più le sembianze di 2 ingranaggi. Ricordo che un giorno la fontanella del villaggio interruppe di funzionare e allora Wendy, che aveva incominciato un lavoro di muratura, in mancanza dell'acqua, aggiunse al cemento e alla sabbia il contenuto di un fiasco di buon barbera. In seguito seppi che ritornò a Londra per morire poco tempo dopo. A lei succedette il figlio Colin. Venuto a Bussana Vecchia per visitarla, non volle più andarsene. Lasciò il suo lucroso impiego alla City di Londra per seguire le stesse sensazioni provate dalla madre. Yeah. Dunque, vorrei innanzitutto chiedere scusa a tutti i sanremesi e a tutti gli abitanti della provincia di Imperia, visto che ho detto che Bussana Vecchia è in provincia di Sanremo. Ovviamente la provincia di Sanremo non esiste, come mi ricordano solo credo una quarantina di messaggi che sono arrivati dal vivo qui a Radio 24. È chiaramente provincia di Imperia, però è vicino a Sanremo. Lo poi chiederò conferma a Vanni. E poi ne ho detta un'altra. Ah no, qualcuno mi dice che è andata esattamente così, cioè che anche Dario Fo aveva saputo la notizia del Nobel mentre era in auto con Ambra Angiolini e stavano registrando un programma di Rai 3, se non ricordo male, che si chiamava Milano-Roma. Era in auto e qualcuno accostò la sua auto con un cartello che diceva "Hai vinto il premio Nobel". Non ha vinto un premio Nobel Vanni Giuffrè, ma è un artista che ha creato un luogo incredibile insieme ad altri, ovviamente, che è proprio Bussana Vecchia. Pronto, ciao Vanni, buongiorno! Buongiorno a te. È un grande piacere risentirti. Vanni, qualcuno se lo ricorderà, la scorsa stagione ci aveva mandato una storia che era una linea d'ombra molto profonda, che raccontava proprio di un gruppo di artisti che si addormentava a Bussana Vecchia in un posto e si risvegliava in un altro. Dico bene, Vanni? Era quella la storia che ci avevi raccontato. È una storia magica, anche un po' strana. Sì, quello me lo ricordo molto bene, che fosse strana me lo ricordi. Vanni, senti, ci spieghi un pochettino, ce lo racconti ancora, che posto è Bussana Vecchia? Era un piccolo borgo ligure distrutto da un terremoto. E voi cosa ci avete fatto negli anni 60? Beh, guarda, dobbiamo essere sinceri, le verità spesso non si pagano, però si devono raccontare. Bussana Vecchia era un posto meraviglioso lasciato da quei poveri bussanesi che hanno sofferto nell'1887, hanno sofferto una notte incredibile, un terremoto incredibile che ha avuto tante vittime, eccetera. Quindi poi si sono spostati per ordine del governo che li aiutate a costruire un paese più sotto, lasciando i ruderi così incustoditi. E che cosa succede? Che lì è diventato da principio un covo di gente che si arrangiava, che lavorava nei campi vicino. Però poi quello, il male che è stato fatto, e il male è che in l'amministrazione di quei tempi di Sanremo ha bucato tutte le case, le ha resi inagibili. Io ho trovato le case, cioè tutte le foto, con dei buchi enormi, tutto il soffitto mancante, due tre piani. Perché diciamo il tentativo era quello di far sì che nessuno ci potesse abitare, se capisco bene. Esattamente. E voi cosa avete fatto? Voi intendiamo un gruppo di artisti per lo più che lavoravano con la pittura, con la scultura e con la musica anche, dico bene. Senti, lì che ci ha aiutato moltissimo la stampa. Abbiamo avuto degli amici giornalisti che veramente sono stati di grande aiuto, perché ogni nostro gesto, ogni nostro sforzo lo ingrandivano magari, ma ci hanno molto aiutati, perché quello è stata una protezione. La stampa ci ha protetto moltissimo, perché eravamo in sostanza, non avevamo alcuna difesa da parte nostra. Cosa potevamo fare? Veniva il vigile, diceva qui non potete stare, noi stavamo ugualmente. E quindi a tutti gli effetti eravate abusivi, giusto Vanni? Cioè, esatto, per dire cose come sono. Poi è vero anche che avete reso quel paese adesso un luogo di turismo puro, in cui la gente va a visitare Bussana, perché tra l'altro vedevo che Anita ha postato una foto sul nostro profilo Facebook, c'è un cartello che dice Bussana Vecchia, villaggio medievale artistico e artigianale. È diventato questo. Non è quello che volevamo fare noi, perché sai che nel nostro, allora con Luciano Berio, il grande Luciano Berio, con Agnesi ed altri, avevamo lanciato un'idea di creare veramente un centro d'arte internazionale, e per questo sono arrivati un centinaio di artisti, di amici miei, da tutto il mondo. Essere qualcosa di meno turistico ma di più artistico. Chiaro. Insomma, l'intenzione originaria la posso immaginare, poi però sappiamo anche come vanno le cose quando si crea un certo interesse. Vanni, scusami, andiamo alla storia, perché altrimenti non facciamo in tempo minimamente a parlare di Wendy. Tu l'hai mai toccato questo piccolo coccodrillo? No, l'ho toccato, no, l'ho dovuto trasportare pestato a morte ed è dentro la mia macchina in pieno agosto alla ricerca di un imbalsamatore assieme a Wendy, che ci hanno consigliato di andare fino a Nizza, dove ci hanno dato un indirizzo di un imbalsamatore di Nizza. Senti, ma Wendy come campava? Era ricca di suo? Aveva, sì, certo, perché lei era la moglie di un famoso, di un celebre perlomeno aristocratico, e che era anche nella Guardia Reale inglese. Con lui stava viaggiato in giro per il mondo. Insomma, non aveva bisogno dello stipendio a fine mese, ecco. Esattamente. Senti, invece tu, Vanni, io ricordo, me l'avevi già raccontato la scorsa stagione, hai vissuto alla fine a Bussana per quanti anni? Ma io sono vissuto a Bussana fin quando ho trovato la barca giusta che mi portasse in giro per il mondo, e che Bussana era diventata ormai maggiorenne e poteva sbrigarsela da sola. E quindi tu a quel punto hai preso la tua barca e sei stato in giro per il mondo per quanto? Per circa 9 anni. E adesso dove vivi, Vanni? Adesso vivo su in Ebro, in Sicilia, in un paese interessante dove mi hanno voluto per 5 anni come vice sindaco, e ho costruito e ho perlomeno messo su il primo museo al mondo dedicato agli angeli, perché il paese si chiama Sant'Angelo, quindi ho voluto anche accomunare tutti i paesi che si chiamano Sant'Angelo in Italia, ne ho raccolti 13. E così abbiamo creato degli scambi culturali. Vanni, vista da qui la tua vita sembra estremamente interessante, per cui noi vogliamo almeno un'altra storia, se non di Bussana, del giro del mondo in barcavela. Insomma, quando vuoi sai come trovarci. Grazie mille, certo. Vanni, in bocca al lupo per tutto. Grazie, a presto. Ciao. A presto a te. Ciao caro. Lui è David Bowie, ovviamente Rebel è dedicata a Vanni e un pochettino anche a tutto quel gruppo di artisti e amici che hanno reso Bussana Vecchia quello che è. Andate a cercare le foto di Bussana Vecchia online, le trovate passando magari anche attraverso il nostro profilo Facebook. Chiudiamo questa prima parte di questa puntata di Linee d'Ombra, che è dedicata all'essere eccentrici, e più tardi racconteremo la storia di un archivio molto prezioso di Bob Dylan, che forse è uno degli artisti eccentrici per definizione, con una storia che è una linea d'ombra che è tracciata dalle ruote di un camper. Questa l'abbiamo chiamata piccola linea d'ombra, non perché sia piccola la dimensione nella vita del protagonista, ma semplicemente perché è arrivato un racconto molto breve, e noi abbiamo deciso che di solito quando sono troppo brevi non riusciamo a raccontarli, perché non tengono uno spazio sufficiente per poter riempire una puntata, e invece abbiamo deciso che no, che era giusto anche raccontare queste piccole linee d'ombra. Il protagonista è Roberto, parte dei protagonisti sono la sua famiglia, e in particolar modo, come vi dicevo, la piccola linea d'ombra tracciata dalle ruote del suo camper. Mi chiamo Roberto, sono un uomo di 45 anni, vengo dalla Sardegna e voglio condividere con voi la nostra linea d'ombra, perché il 15 di agosto del 2019 siamo diventati proprietari del nostro primo camper. E siamo partiti il giorno successivo. Dopo aver stivato il necessario per fare una piccola uscita di prova, abbiamo invece deciso di prolungare la vacanza e siamo rientrati un mese dopo, il 15 settembre. In questo mese, facendo l'intero giro della Sardegna, ci siamo resi conto di quanto fosse bella questa vita. Ah, dimenticavo, siamo Roberto, Rita e il piccolo Davide, che ha 7 anni, e quest'anno avrebbe dovuto frequentare la seconda elementare. E dico avrebbe perché il nostro pensiero è rimasto sempre e solo focalizzato su un grande viaggio. Il 3 ottobre, e cioè solo dopo 18 giorni dal rientro del Giro della Sardegna, eccomi qua. Mi ritrovo a scrivere questo racconto in Val d'Aosta, dentro il nostro camper. Abbiamo richiesto l'educazione parentale, affittato la casa dove abbiamo vissuto per una vita, venduta una delle due macchine in nostro possesso e ci siamo lasciati la vita conosciuta fino ad ora alle spalle. Per il momento la data del rientro è fissata per giugno, perché Davide dovrà sostenere l'esame di ammissione alla terza elementare. Il nostro giro però, anche se non abbiamo studiato nessun percorso, ci porterà a svernare in Portogallo, per poi proseguire nel resto Europa. E allora buon viaggio a Roberto e alla sua famiglia. Linee d'ombra chiocciola radio24.it. Se volete mandarci la vostra storia di Linee d'ombra, ora le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare. Linee d'ombra. Il confine tra il personaggio pubblico e l'uomo privato, quando si parla di Bob Dylan, è un confine molto alto e quasi invalicabile, al punto che di lui raccontiamo oggi in questa puntata che si intitola Sì, sono un eccentrico, perché il 13 ottobre, quindi 4 anni fa esatti, era il 2016, il comitato del premio Nobel dell'Accademia di Stoccolma comunicava che il Nobel per la letteratura era stato assegnato a lui, a Bob Dylan. Dylan appunto è conosciuto per la sua vita schiva, misteriosa, eccentrica. Non è andato a ritirare il premio, questo lo sappiamo, anche se poi lo ha fatto in realtà un anno più tardi. Dylan ha collezionato nella sua vita una enormità di materiale scritto, di fotografie, di video che compongono un archivio che fino a qualche anno fa è rimasto segreto, fino a che una fondazione dell'Oklahoma l'ha acquistato per 60 milioni di dollari. E questa è la storia di quell'archivio. State con noi. Per anni gli studiosi di Bob Dylan hanno sussurrato di un piccolo taccuino, visto solo da pochi, in cui il maestro ha lavorato sui testi del suo album del 75, Blood on the Tracks. Rolling Stone una volta lo chiamò il falco maltese della Dylanologia, per la sua promessa di essere la chiave interpretativa di tutta l'opera di Bob Dylan. Ma quel quaderno, a quanto pare, fa parte di una trinità. Adagiati in un deposito a temperatura controllata di un museo di Tulsa in Oklahoma, ci sono altri 2 quaderni di Blood on the Tracks, sconosciuti a chiunque al di fuori della cerchia più ristretta di Bob Dylan, le cui pagine di microscopico copione rivelano qualcosa su come Bob Dylan abbia scritto alcune delle sue canzoni più famose. Le Prix Nobel de Littérature pour l'année 2016 et attribué à Bob Dylan. Il premio Nobel per la letteratura 2016 è stato assegnato a Bob Dylan per avere creato... Da tempo si dice che il signor Dylan abbia nascosto un vasto archivio. Ora si è scoperto che aveva conservato un archivio privato del suo lavoro, risalente ai suoi primi anni di attività artistica, che comprende appunto testi, corrispondenza, registrazioni, filmati e fotografie. Quell'archivio di 6.000 pezzi è stato recentemente acquisito da un gruppo di istituzioni in Oklahoma per un valore stimato tra i 15 e i 20 milioni di dollari ed è destinato a diventare una risorsa per lo studio accademico dei suoi versi. Dylan ha detto di essere contento che i suoi archivi abbiano trovato una casa e che siano da assimilare alle opere di Woody Guthrie oppure che stiano accanto a tutti i preziosi manufatti dei nativi americani. E mentre l'archivio è un ulteriore passo avanti nella santificazione di Bob Dylan, che oggi ha 79 anni, non solo come icona musicale, ma anche come gigante letterario americano, i documenti sono abbastanza curiosi in quello che rivelano. C'è ad esempio un biglietto di Barbara Streisand con un timbro postale del novembre del 78. Lei ringrazia Bob Dylan per l'invio di fiori e suggerisce scherzosamente di fare un disco insieme. Non ci sono prove di risposta. Tocchi di umanità invece appaiono qua e là, in pezzi piccoli e sparsi. C'è un portafoglio della metà degli anni 60 che contiene il numero di telefono di Johnny Cash o il biglietto da visita di Otis Redding. Si può vedere addirittura il telegramma del 69 di Peter e Dennis, che sono Peter Fonda e Dennis Hopper, per via di un uso di una canzone, una delle sue, It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. È stato usato nel film Easy Rider. La risposta è stata la lettera di un avvocato. Ecco, in mezzo a queste montagne di carta, Dylan, l'uomo, rimane un enigma. Si tratta di un artista il cui processo di lavoro è stato privato, tanto quanto lo è la sua vita personale. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. C'è un signore in Oklahoma, si chiama George Kaiser, ed è stato lui la forza trainante dell'acquisizione dell'archivio di Dylan. È molto lontano dal culto della figura di questo musicista. In un'intervista nel suo ampio ufficio della Kaiser Francis Oil Company, il signor Kaiser ha chiarito che non è tanto un appassionato di Bob Dylan quanto un estimatore del suo posto all'interno della storia americana. Con una fortuna stimata in oltre 7 miliardi di dollari, il signor Kaiser è l'uomo più ricco dell'Oklahoma. Figlio di rifugiati ebrei scappati dalla Germania nazista, è un importante finanziatore democratico in uno degli stati più conservatori d'America. E la sua fondazione di famiglia sostiene l'educazione della prima infanzia e lavora con le donne in prigione. 5 anni fa la fondazione ha acquisito gli archivi di Woody Guthrie, il cantante folk a cui Dylan deve parte della sua formazione. E il signor Kaiser ha detto che gli scritti di Guthrie e Dylan si inseriscono nella missione dell'organizzazione, che è quella di rivitalizzare la città di Tulsa. Finora Dylan non ha ancora visitato la fondazione. L'anno scorso era stato programmato che facesse una sosta mentre passava per Tulsa in tournée, ma un tornado che si è abbattuto sulla regione gli ha dato solo il tempo di suonare il concerto e di raggiungere la città successiva. Dylan non è che ha portato l'impegno, quello è un modo molto banale di ridurlo, ha portato la poesia, la grande poesia, cioè ha messo nelle canzoni la possibilità di dire tutto, anche parlare d'amore, ma comunque con un linguaggio nuovo, diverso, più originale. Se Dylan si pone il problema, dice sì, io sto facendo delle cose straordinarie, molto belle, ma si sente leggermente, come dire, fuori tempo, fuori misura, nonostante lui abbia indicato agli altri, ai Beatles, agli Stones, a tutti quanti, la strada, cioè il fatto di poter scrivere cose più intelligenti, più interessanti, più profonde o più misteriose. Alla domanda sulle dimensioni economiche di questa operazione, i soggetti coinvolti nell'affare si sono rifiutati di commentare. L'intero archivio è stato valutato più di 60 milioni di dollari. La differenza tra il valore stimato e il prezzo di acquisto potrebbe consentire a Bob Dylan di richiedere un'ampia donazione di beneficenza a fini fiscali. Nell'archivio ci sono anche alcune delle sue prime registrazioni, una del 59 o i film dei concerti di Dylan alla Massey Hall di Toronto nell'80 e al Supper Club di New York nel 93. Un film in particolare sembra destinato ad essere visto più volte a Tulsa. Si tratta delle prove del tour di Mr. Dylan Rolling Thunder Review del 1975, in cui Dylan si siede insieme ad alcuni musicisti, lavorando attraverso gli accordi e i testi ad una canzone particolarmente conosciuta, ma che non ha scritto lui. Era This Land Is Your Land di Woody Guthrie. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. Io ricordo la prima volta che ho sentito questo pezzo di Woody Guthrie, era all'interno di un programma radiofonico in cui si leggeva Furore di John Steinbeck, e dicevo ammazza com'è registrata male sta canzone. Poi ho fatto una ricerca, Anita Panizza se la ride, però ero un ragazzino, diciamo così. Poi ho fatto una ricerca e ho capito che questo era l'uomo che aveva in qualche modo creato la musica folk, a cui appunto Dylan doveva moltissimo. È arrivato un messaggio prima che diceva, mi diceva, ma definire Dylan un cantante folk è un po' riduttivo. Ho chiesto al mio referente assoluto, che è Luca Michela, Luca Micheli, e mi dice no va bene il folk va bene, diciamo, poi il folk rock, ma non essendo un esperto musicale me ne lavo direttamente le mani. La storia che abbiamo raccontato però su Dylan e sul suo archivio l'abbiamo tratta da un pezzo del New York Times che si intitolava proprio l'archivio segreto di Bob Dylan. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare quella infinita linea d'ombra che è la storia di Antonio Cocco. Linee d'ombra. Io credo che per alcune persone, soprattutto quelle che non sono mai state abituate a scrivere una lettera, quindi parlo delle persone più giovani, parlo di una lettera con carta e penna, intendo dire, ecco, questa storia seriale di Linee d'ombra sia forse un po' complessa da capire, perché è la storia di un giovane uomo che negli anni 50 molla tutto, e non lo fa con l'intenzione vera di mollare tutto, ma con l'intenzione di scappare da un brutto voto a scuola, non ha nemmeno compiuto 18 anni, e finisce, per motivi di cui vi raccontiamo praticamente quotidianamente, finisce nella Legione Straniera, che è questo corpo dell'esercito francese dove soprattutto all'epoca si rifugiavano letteralmente tutti i reietti della società. Lui era solo un ragazzino e appena ci arriva decide che vuole scappare e comincia a fare che cosa? A scrivere a casa, e scrive una quantità infinita di lettere a 9 fratelli, un papà e una mamma a Venezia, che sono stati sorpresi, sono basiti da questa fuga. Comincia a scrivere a tutti. A noi è arrivato un blocco di lettere che sono le lettere che ha scritto Antonio Cocco, che è il protagonista di questa storia, al padre a Venezia, raccolte in un volume che si chiama La Ridotta Isabel, che ci ha di fatto consegnato l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. Mauro Pescio si è messo sulle tracce di questa storia e ha trovato tra gli altri familiari, in particolar modo Gianni e Sergio, che sono il fratello, uno del fratello più piccolo, di cui sentiremo la voce a brevissimo, e Sergio, che è il marito di una delle sorelle di Antonio. Ebbene, oggi siamo con lui. Antonio è in marca visita. Tecnicamente si dice così quando si fa la vita militare, marca visita, è in ospedale e scrive a casa alla mamma, ma sta soprattutto cercando un modo per tornare a casa. Cara mamma, ti sto scrivendo dall'ospedale di Saida. Non prendere paura, mi sono tagliato la mano con un coltello. Purtroppo il coltello era ben affilato e il taglio non è indifferente. Tanto che il dottore della compagnia insiste nel dire che mi sono tagliato di mia spontanea volontà. Guarda un po' cosa vanno a pensare qui. E non si sono ancora convinti. Sta a vedere che dovrò fare anche la prigione, perché è un male volontario. Quando si parlava dei metodi, uno dei metodi normali, se uno voleva finire in infermeria per un pezzo, era di tagliarsi la mano. La voce che avete appena sentito, insieme a quella di Gianni, è quella di Sergio Serra, marito di Mariella e cognato di Gianni e Tony. Lui che ha trascritto tutte le lettere di Tony. Qui in ospedale mamma non si sta tanto male. Si mangia abbastanza bene, non si fa niente tutto il santo giorno. Il guaio è che non si riceve posta. Non so perché, ma ben pochi qui dentro ne hanno avuta qualcuna. E non sa nemmeno quando potrò spedirti questa. Ho ricevuto la tua lettera 2 o 3 giorni fa e sinceramente sono rimasto un po' male quando mi hai scritto... A tutti scrivi meno che a tua mamma. Il mio pensiero è questo, che probabilmente mia mamma avrebbe avuto piacere di ricevere una lettera al giorno, no? E lui scriveva spessissimo al padre e aggiungeva quasi sempre qualcosa per la mamma. Per due o tre fratelli aggiungeva sempre, e anche a mia madre. Credo che fosse un discorso un po' tattico di dire tutto quanto al credito italiano, per sicurezza di risorgimento, eccetera. Sono rarissime le cose che mandava separatamente. C'è qualche lettera a mio fratello Cesco, qualche lettera all'Idania, qualche lettera mandata separatamente. Ci sono le stampe che ha mandato a me, quelle trovate nella baracca bruciata, ma tentava di scrivere soprattutto a mio padre, perché era come un indirizzo facile che sicuramente veniva consegnato. Cioè, tuo padre riceveva delle lettere, certe volte metti che almeno due casi sicuramente era ubriaco quando l'ha scritto, e lui sapeva che il padre non avrebbe mandato subito sta roba a leggere in famiglia, ma avrebbe letto solo le parti che erano decenti e accettabili. Diciamo che alla sera, quando arrivava a casa, probabilmente alcune parti non le leggeva, anche se molto spesso dava da leggere soprattutto all'Idania. Quando lui arrivava come troppo emozionato, troppo commosso, come la prima cartolina è arrivato con l'altro pregiotto, non riusciva neanche a parlare, l'ha consegnata all'Idania, che ha letto lei in tavola davanti a tutti. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, should I trust the government? Un Luca Micheli super ispirato quest'oggi con Bob Dylan e i Pink Floyd, anche se la puntata effettivamente la chiamava. Sì, sono un eccentrico, si intitola la puntata di oggi. Vi abbiamo appena finito di raccontare un pezzo della storia seriale di Antonio Cocco. Vi ricordo che potete ascoltarla il sabato. Abbiamo fatto un piccolo riassunto di tutte e cinque puntate della settimana. Alle 21.30 ve la potete ascoltare, o ovviamente, come tutto il resto, anche online sul podcast di Linee d'Ombra, la pagina di Linee d'Ombra sul sito di Radio 24, dove potete anche recuperare i nostri social, evidentemente. Chiudiamo questa puntata, lo facciamo una volta a settimana, chiudiamo questa puntata mettendo un altro pezzo che utilizziamo per raccogliere le storie, che è il pezzo legato alla vostra voce ed è legato a un numero WhatsApp che è solo nostro, pensa che fortuna, che è il 331 57 55 721. Cosa vi chiediamo di raccontare in questo piccolo pezzo di racconto di Linee d'Ombra? Vi chiediamo di raccontare la linea d'ombra che state vivendo in questo momento preciso. Oggi, ad esempio, nella storia di Vanni vi abbiamo raccontato quella linea d'ombra profondissima che è stato il suo periodo vissuto a Bussana Vecchia, che risale ormai probabilmente a 20-30 anni fa, quando i ricordi di fatto diventano storia, diventano narrazioni, ed è più facile anche scriverli, guardarli da fuori. Se però qualcuno di voi si trova in questo momento in mezzo a un trasloco importante, in mezzo a un pezzo della vita difficile, a un guado qualunque, ha una linea d'ombra, potete prendere il vostro telefono, aprire WhatsApp e al 331 57 55 721 lasciarci un messaggio di 1-2 minuti con la vostra voce in cui ce lo raccontate. Con questo messaggio andiamo negli Stati Uniti e sentiamo qual è la linea d'ombra che l'ascoltatore sta vivendo. Ciao, mi chiamo Francesco. La mia linea d'ombra, iniziata tanto tempo fa, nel 2008-2009. Immigrato negli Stati Uniti, dall'Italia ovviamente, dalla Sardegna, perché non c'è lavoro, perché non c'è un futuro. Le spese continuavano ad accumularsi, i debiti. Grazie, non so, a un po' di fortuna, un'occasione raccolta, mi è capitato di dover venire qui negli Stati Uniti. Con un visto turistico, dopodiché non sono più andato via. Ho lavorato, mi sono iscritto a scuola e faccio l'operaio. Oggi ho una casa, una moglie e due bambini. Una linea d'ombra che dura così tanto. L'idea è sempre di tornare nella mia patria, ma chi lo sa? Questa è solamente una piccola traccia della mia storia. Ciao. Lui è Francesco da chissà quale parte degli Stati Uniti e lo ringraziamo moltissimo e vi ricordiamo qual è il numero se avete voglia anche voi di condividere una storia a voce, il 331 57 55 721. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, Luca Micheli, Paolo Corleoni, Anita Panizza e Mauro Pescio. Io lascio la linea al GR, poi a Gianpaolo Musumeci e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.